sangue circola all'interno del corpo immobile in silenzio. Mi sento come un fiume verso acqua attraverso fluire sangue si fa acqua all'interno quando un pensiero mi sento come